parata! E adesso però va su. È fuori gioco. Fuori gioco. Pallone in area e la girata di... E ancora una volta però fuori gioco. E da due passi arriva la deviazione di Morata. Vediamo. Fuori gioco. Ritenta. Sarai più fortunato. Dobbiamo convocare la banda. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Messi spiazza Szczęsny ed è 2-0 per il Barcellona. Sono più avanti nel percorso, hanno giocatori abituati a giocare queste partite, mentre noi siamo in costruzione, giocatori che era la seconda partita che giocavano in Champions League, e quindi poi capisci il livello. Però sapevamo di fare questo tipo di partita e alla fine è una partita che ci servirà per la crescita. Correa con il sinistro, trova l'angolino, la Lazio in vantaggio. Gran gol di Correa. Parte Van Aken che spiazza Reina e pareggia la partita, è 1-1. Sono stati bravi ragazzi, una partita di carattere che avevo chiesto, hanno tirato fuori tutto quello che avevano preparato tra mille difficoltà, con pochissimi giocatori, però secondo me abbiamo fatto il massimo, e con un pizzico anche l'episodio in più, le ultime due occasioni di Milinkovic e Pereira, secondo me si poteva fare anche il bottino pieno. Claudia Schiattone, Gianmarco Ferronato, Ivan Zazzaroni, buongiorno. Ciao, buongiorno. Buongiorno, come stai? Molto bene, voi? Io benissimo, pardon, non so. Come stai, Pier? Ma io molto bene, sono divano. Anche perché l'uomo più ascoltato della televisione italiana ieri sera. Dove hai visto la partita, Ivan? Sky o Canale 5, posso? No, io non guardo Sky. Il dottore me la... Quando c'è Pardo devo guardare Pardo. Il dottore me l'ha ordinato. Mamma mia. No, guardo Sky, sono carinissima. Ieri sera ho guardato Pardo. Ho sbagliato? Abbastanza, no, è uno del 23. No, di là c'era Massimo Marianella con Marchezzani, quindi insomma diciamo che secondo me come andavi bene, sinceramente. Poi ti faccio fare radio tweet, ma intanto ragazzi, l'avete visto avete visto lo spot di Ibra per la Regione Lombardia? No. No? Ivan? No, non l'ho ancora visto. Posso immaginare? Beh, io posso anche fartelo sentire. Vai. Il virus mi ha sfidato ed io ho vinto. Ma tu non sei Zlatan, non sfidare il virus. Usa la testa e rispetta le regole. Distanziamento e mascherina, sempre. Vinciamo noi. La Juve prende due gol, potevano essere 8, un autogol ha segnato pure Ronaldo in remoto, Ivan. No, volevo soltanto dire, scusa, no, lo Sky era una battuta di prima, sì, sono vabbè, bravissimi, vabbè. Poi ieri mi ha fatto, no, io ho guardato qua Pardo, però sono sempre molto collaborativi, soprattutto in questi momenti, quindi trovo che siano una sorta di esempio. Certamente, condivido. Quanto alla Juve? Quanto alla Juve, io mi chiedo cosa la gente aspettasse da Pirlo, perché... Io sono veramente scioccato dai commenti. Cioè, uno che non ha mai avuto esperienza ma come allenatore, ma grande esperienza come calciatore, è stato preso per ritornare a un impianto, a un modello di allenatore gestore, magari meno tattico, dopo l'esperienza con Sarri, che non è andata bene al di là dello scudetto, perché c'erano rapporti non buoni con la squadra, col gruppo. È arrivato Pirlo, chiaramente tutti avevamo le nostre diffidenze, i nostri scetticismi, al di là della personalità di Andrea, ma se tu alla Juventus togli Ronaldo, Alexandro, De Ligt, Chedira, poi togli pure Douglas Costa, De Ligt l'ho detto, sì, Dybala è appena rientrato, cioè Chiellini, scusate, ma un allenatore come uno neo allenatore ha bisogno dei grandi giocatori, almeno inizialmente, perché sono loro che gli risolvono i problemi. Se gli togli i grandi giocatori e trovi buoni giocatori, sicuramente non eccezionali, ma buoni giocatori, va in difficoltà. Contro il Barcellona è stata una lezione assurda, perché sembravano una Juve normalizzata contro un Barcellona che aveva 3-4 campioni veri. Dove sbaglia Pirlo quando dice ci sono giocatori che non hanno due parte di Champions? Chi? Scusate, Cuadrado ne ha fatte 1 miliardo, Dybala non ne parliamo, Morata non ne parliamo. Ma anche Bentancur, che pure è giovane come l'acqua, ha fatto la Champions. Bonucci ha fatto la Champions, Chiesa ha fatto la Champions, cioè Danilo ha fatto la Champions, l'unico era Chiesa che è arrivato l'altro ieri, e Kulusevski. Comunque Kulusevski è una sorta di Zlatan di centrocampo, è convinto di aver fatto 10 anni di Champions a questa sicurezza. Quindi non è tanto quello, io credo che non stia andando bene, sicuramente, perché non va bene un contesto del genere, però è l'inizio, è il ritorno di un percorso, secondo me, molto complesso, sì. Con un mercato che ha lasciato molti dubbi perché non c'erano le risorse. Sì, a me sembra una Juve un po' presuntuosa. Pierluigi, quante volte l'hai commentata fin qui la Juventus? L'ho vista proprio sempre, l'ho commentata a Crotone, l'ho commentata ieri, diciamo che non sono stato particolarmente fortunato, anche se poi in realtà non so se alla fine, forse con la fatta. Vedi un percorso? Kiev, l'ho vista con Riccardo Gentile, no, Kiev è stata secondo me la partita migliore della stagione, ma insomma se rispetto al Verona o anche alla stessa partita contro la Roma, secondo me non è che poi, cioè il livello in questo momento è quello che abbiamo visto ieri sera, è una squadra piena di dubbi che ieri ha provato, io devo dire, ieri ci sono delle cose secondo me che vanno viste e interpretate secondo me nel senso giusto, cioè ieri Pirlo fa una partita cercando di approfittare delle difficoltà difensive del Barcellona che c'erano, con un atteggiamento molto offensivo, col pressing altissimo. Ieri è stata una partita divertentissima dal punto di vista ovviamente del Barcellona, dal punto di vista del neutrale, perché è stata una partita piena di occasioni e di errori da una parte e dall'altra, più Barcellona ne ha avuto ovviamente di occasioni della Juve, però insomma complessivamente sono due squadre che hanno giocato proprio all'antica da questo punto di vista, senza tatticismi, però poi tu vedi è un po' un vorrei ma non posso, ecco. Sì, cioè, è giusto, è comunque apprezzabile il tentativo di fare certe cose, per esempio il pressing alto di ieri, però poi non viene fatto in maniera coordinata, non è stato fatto in maniera coordinata da tutti, quindi insomma vedi dei segni di qualcosa che potrebbe anche essere ma che al momento non è. Sì, ma sia chiaro, errori ne ha commessi, non è che non dico che sia esente di errori, io penso alla coppia centrale, certo, centrocampo di Roma con Cuadrado a sinistra, cioè lasciamo stare, cioè ha fatto veramente anche Frabotta buttato dentro lì, lo stesso Portanova a Crotone, cioè con calma, secondo me è andato un po' oltre da questo punto di vista, però ha delle attenuanti e siamo all'inizio, vediamo se adesso ha due partite facili, no? Sì, anche Crotone e Verona lo erano. Sì, ma diciamo che vediamo se cresce Dybala, per esempio ieri Dybala è inesistente, mentre nell'ultima parte col Verona avevo visto dei segnali buoni e Dybala è fondamentale per questa squadra, quindi voglio dire vediamo queste partite, se sbaglierà anche questa a quel punto faremo altri ragionamenti. Ma a me sembra che comunque ci sia molta presunzione, però posso dirti Piero, cioè, non la partita consecutiva in cui lo segna, 8 gol nel 2020, che chiaramente l'anno strano, Sì, è stato fuori, è stato fuori un sacco, per però. Carità, è stato, ha avuto anche il virus e l'ha sconfitto, quindi per carità, insomma voglio dire, giocatore di talento, è un giocatore di talento, poi secondo me quando arrivi a certi livelli e fai certi paragoni bisogna capire se questo talento sboccerà definitivamente, io glielo auguro a me sembra che questa Juventus sia come quel gioco dell'asilo dove devi mettere i pioli rotondi, i pioli quadrati, la eccetera, continuità, ma non si incappa, sì, ma però mi sembra diventare più spesso decisivo delle volte in cui è decisivo. Sì. Secondo me è un livello importante. E anche la coincidenza del match col Barcellona che fa pensare all'11 aprile del 2017, che è stato forse il momento più alto della sua carriera, e poi l'inizio della stagione immediatamente successiva, quando lui cominciò benissimo, e noi giornalisti, ovviamente, ma mi ci metto anch'io, anche se non faccio il titolo di giornale, in quel periodo lì seguivamo una suggestione di un giocatore che potesse diventare un quasi Messi, non un altro Messi, ma un quasi Messi. Sono passati 3 anni e quel processo di crescita purtroppo secondo me non è continuato, quindi oggi c'è un passo indietro. Sì, Ivan, tu che i titoli giornali invece li passi? A me la Juve sembra piuttosto, al di là di Dybala, una squadra difficile da incastrare, Dybala compreso, mi sembra una squadra, ripeto, che abbia molta presunzione, perché così tanti giocatori offensivi, quando hai gli assenti, sei in difficoltà eccetera, forse sarebbe il caso di coprirsi le ginocchia, no? Ma sai, lui ha provato un po' lo schema che adottò Ancelotti con poca sensazione e poca fortuna a Napoli, questo 4-4-2, chiamalo come ti pare, no? 4-2-4, sì. Però non è tanto una questione tattica. Ieri effettivamente si è visto poco servito e mal servito Chiesa, Kulusevski è sparito, cioè quando vanno così sotto condizione di partita è chiaro che non puoi aspettarti molto. Poi hanno avuto 3 palle gol, cioè io ieri sera ho pensato a Pippo Inzaghi. Anch'io in tanti l'avevo pensato, col VAR Pippo Inzaghi avrebbe anche Morata, anche Morata ci ha pensato a Pippo Inzaghi, perché adesso diciamo una cosa su questo ragazzo che secondo me si sta muovendo benissimo ed è veramente uno dei migliori, o se vogliamo essere cattivi uno dei meno peggio in questo momento della Juve, ma è un giocatore che veramente sta facendo, è arrivato con uno scetticismo enorme, accolto da scetticismo enorme, Morata è uno che sta facendo il suo pienamente. Poi fuori gioco è fuori gioco. A me il dibattito sui 5 centimetri mi fa ridere, cioè se sono 5 centimetri è fuori gioco. Sì. Però è evidente che su 5 situazioni, 2 delle quali assolutamente millimetriche, un po' di sfiga. È un altro calcio. Noi l'abbiamo ribattezzato Alvaro, più che Alvaro, perché è un altro calcio, cioè rispetto a quello che era prima. Noi siamo alla chirurgia adesso, no? con i centimetri, nel senso che poi vedi arbitraggi come quello di Giacomelli. E subito dopo ti annullano 3 gol, 4, metto anche quello di Crotone come quello di ieri sera, ma ragazzi, come veramente millimetrico, per cui 5 sì, quello che mi hanno colpito di più sono quei 3 di ieri sera, quello di Crotone. Però è chiaro che sei di fronte a qualcosa di quasi paradossale, cioè a fronte di errori di gestione clamorose poi ti ritrovi con una precisione millimetrica, quindi insomma sì, è un po' contraddittorio. Sì, sono d'accordo con c'è il VAR, per cui il VAR, ecco, l'unica garanzia che noi abbiamo sul fuorigioco col VAR. Bravo, sono d'accordissimo. Sì, ma infatti scusa, chiudo un momento Graziano Cesari della partita di ieri per dire che il vero tema, se vogliamo fare un discorso arbitrale, che francamente è il discorso più ridicolo, perché ieri comunque Barcellona ha strameritato e credo che non ci sia stato un solo giocatore o dirigente della Juve che abbia parlato di altro, perché è giusto parlare invece dei propri limiti e delle proprie aree di miglioramento. Ma insomma, l'unica cosa sulla quale si può discutere sicuramente è l'intervento su Bernardeschi, che probabilmente comincia fuori area, e quella è un'altra situazione metrica nella quale forse il VAR, anzi senza forse, il VAR poteva intervenire, ma in realtà il VAR serve per situazioni metriche e bisogna capire questa cosa qua, al di là di Giacomelli in Milan Roma, che chiaramente l'eccezione conferma la regola, bisogna accettare mentalmente questo concetto, cioè che tutto ciò che è metrico viene deciso dalla tecnologia, quindi il fuorigioco di un millimetro è fuorigioco, chiaramente è frustrante per chi viene il gol annullato, ma è così e va accettato. Tutto il resto è assolutamente invece ancora interpretazione arbitrale, a meno che non vogliamo cambiarlo, ma cambiarlo significherebbe per esempio dire che ogni contatto è rigore, invece non è vero che ogni contatto è rigore, perché c'è una discrezionalità arbitrale. Questo è un dubbio. Sarebbe poi più interessante il discorso più prettamente calcistico, c'è chi dice ma devi imparare a muoversi, a proposito di Pippo Inzaghi, secondo me il fuorigioco di 3 millimetri, imparare a muoverti, che cosa, scusa. Ma se lui si sta muovendo la Pippo Inzaghi, ma Pippo ci farà la risata, sai quanti gol senza VAR gli avrebbero levato, sì. E lui viveva di questa cosa qua. Senti, fammi dire le ultime 2 cose con Ivan Zazzaroni. La prima, se mi aiuti a fare un applauso alla Lazio, perché ha vissuto una vigilia che avrebbe ammazzato un branco di tori, è andata in Belgio, avversario non trascendentale, ma va lì in vantaggio 1-0, recuperata 1-1. Prima cosa. La seconda, che si dice nel laboratorio dello sport, del Corriere dello Sport, di Tutto Sport di oggi? Ma guarda, io sono quello che ci credevo di meno, e invece sta venendo fuori una cosa bellissima. Sì, anche perché c'è chiunque, c'è tutto il mondo. Chiunque, sì, hanno fatto interventi anche molto interessanti, in particolare Bach, Gravina, ma anche Gazzidis, Zhang, è una, cioè, noi lo chiamiamo laboratorio, è un modo per concentrare nell'arco di 12-13 ore una serie di opinioni importanti, cercare di capire come uscire da questo casino pur convivendoci, perché effettivamente è chiaro, sono i morti, sono dei numeri pazzeschi, però c'è anche l'urgenza di andare avanti, l'urgenza di pensare anche a un futuro e quindi di mettere le basi oggi. Mm. No, è venuto fuori una cosa molto, molto divertente, molto interessante, divertente nel senso interessante. Si sta parlando di ogni cosa, tra l'altro. Si sta parlando di ogni cosa. So che Ivan ha già parlato con Mauro Berruto, noi stiamo facendo una piccola iniziativa che parte da una start che non vuole assolutamente essere corporativa, nel senso che nessuno, se almeno io, non ho in questo momento né la presunzione né diciamo la convinzione di quello che è giusto fare. Se lo sport si deve fermare, perché lo sport di base, penso, gli sport di contatto, secondo me è una cosa che va accettata, perché quello che sta succedendo è talmente più grande e più importante che va accettato. Però è quello che ripetiamo spesso in questa trasmissione, l'importante è che lo sport abbia vista riconosciuta una sua dignità e una sua importanza, che significa trattare lo sport per quello che è, dal punto di vista economico, quindi le piccole società dilettantistiche che devono avere poi i sussidi per poter ripartire, esattamente come ce li avranno, mi auguro, spero, non ho tutte le altre attività umane, no? E poi anche il ruolo culturale di questo sport che è fondamentale a tanti motivi. Questo è la cosa fondamentale, perché il corporativismo in questo momento è ovvio, perché i problemi sono tanti, l'emergenza sanitaria è enorme, ma anche l'emergenza economica è enorme. Quindi riconoscere l'importanza, l'abbraccio ai ristoratori, che come Ivan sa sono i miei migliori amici, perché ma io considero andare io sono una delle gioie della vita. Sono figlio di ristoratori, quindi mio padre ha dei locali, per cui so esattamente cosa stanno soffrendo, e lo vivo quotidianamente. Ti dico sinceramente, ci potrebbero essere dei modi anche diversi per affrontare, però non voglio insegnare, non voglio fare il virologo nemmeno io, perché c'è già Ronaldo, dici? C'è già Ronaldo che ci pensa, esattamente. Però al di là di questo, no, per quanto riguarda la Lazio, un grande risultato, con una strategia anti-Covid di Lotito che mi sta incuriosendo molto, voglio dire, sì, anche se è quella efficace, se è quella che avrà risultati migliori di altre. E per quanto riguarda il discorso di Berruto, è un documento molto interessante, penso che in settimana verrà ufficializzato e promosso, è una sorta di riassunto di quello che bisognerebbe fare per aiutare lo sport di base in particolare. Ecco, io l'unica cosa che dico è questo: gli altri sport, e soprattutto gli atleti, non solo, soffrono molto la presenza del calcio, perché il calcio, secondo molti, ha privilegi che altri non hanno, al di là dei numeri, però se non ci fosse il calcio gli altri sport sarebbero morti, nel senso che, ti spiego per quale motivo, in termini di attenzione. Il calcio riesce a trascinare direttamente anche gli altri, a trascinarsi di dietro. Se non ci fosse il calcio, questo governo avrebbe già chiuso tutto. Grazie Ivan. A voi. Ti abbraccio. Ciao Ivan. Ciao, e tra l'altro, per completare il discorso su questo ragionamento, al di là dei complimenti alla Lazio per la partita di ieri sera, che io ho visto soltanto a livello di highlights, ovviamente perché ero a Torino, ma rimane veramente la forza, adesso va molto la parola resilienza, no? La capacità, però insomma anche delle difficoltà più grandi. No, l'atteggiamento, vuol dire avere qualcosa dentro al di là degli interpreti, Piero. Certo, assolutamente. Potrebbe essere anche un grande segnale in prospettiva per la Lazio, perché abbiamo sempre detto il punto debole, o comunque il punto interrogativo della Lazio, è la panchina, no? Non sono certo gli 11 che sono sicuramente giocatori di grande livello, nemmeno i 14, ma i 22-24. Ecco, e ieri insomma è stata data una dimostrazione molto, molto forte e molto bella da questo punto di vista. Tornando invece al discorso di Berruto, voglio dirti che questo documento, che verrà poi ovviamente presentato nei prossimi giorni, nasce proprio dalla nostra chiacchierata, dal nostro collegamento con Mauro dell'altro giorno. Qui a tutti i convocati, adesso verrà condiviso tra olimpionici, atleti di varie discipline, personaggi, semplici appassionati dello sport, e non vuole essere assolutamente corporativo. Ho sentito Mauro anche questa mattina, non è la richiesta riapriamo i campi, riapriamo il calcetto, certo, ma è certo. Consideriamo l'aspetto sanitario il più importante in assoluto, però poi consideriamo tra tutte le attività umane che devono essere ristorate, come si dice in questo periodo, lo sport come una di queste, a testa alta. E soprattutto non vogliamo mai più sentire lo sport contrapposto alla scuola, lo sport contrapposto alla sanità, perché se c'è una cosa che fa bene al corpo e quindi anche allo spirito dei nostri ragazzi è lo sport. C'è una cosa che fa bene alla salute delle persone e consente di risparmiare in termini di spesa sanitaria è lo sport. Ma quindi, in molti altri paesi lo sport non era all'avanguardia delle attività da chiudere prima delle altre, era invece una roccaforte da difendere. Senti, torniamo un attimo al calcio, perché questi sono argomenti di cui parliamo sempre e volentieri con Mauro Berruto, con te, con tutti gli ascoltatori, però voglio far sentire a Massimo Zampini, che ha collegato un WhatsApp. Cioè, ragazzi, nel 2020 veramente sta succedendo di tutto. Tre fuori gioco alla Juve fischiati, tre gol annullati e un rigore dato contro. Ma penso sia mai successo nella storia della Juventus una cosa del genere. Allora, la nuova missione è consolate il soldato Zampini, non salvate il giocatore. Ciao Massimo. Ciao a tutti. Ciao. Ho sentito WhatsApp più brillanti nella mia vita, però comunque va bene così. Cosa possiamo fare per te, Iepardo? Qualcosa per te? Zampini sta benissimo. Ha vinto lo scudetto gli ultimi 9 anni, ma non dimentichiamoci questa roba, perché sennò veramente uno diventa... Certo, è un momento, fa notizia, no? Una Juve così fa notizia, quindi immagino ieri sera non sia stato felice, però non dimentichiamoci, sennò... Diciamo come qualche anno fa i tifosi del Milan in quei 25 anni hanno vinto più di qualsiasi altro tifoso in Italia. Beh, di loro, vuoi parlare con quelli del Benevento che adesso sono felici? No, non lo so, o quelli del Venezia. Lasciaglielo dire a lui che è felice anche oggi. No, ma ovviamente ha ragione, cioè, tutto va contestualizzato, ci sono tre macro piani, cioè uno è quello che dice Pier, cioè comunque ragazzi una stagione anche andasse così, e non lo sappiamo assolutamente, anche non fosse una stagione trionfale, insomma, alla decima può capitare. La seconda cosa che va detta per la contestualizzazione, l'ho sentita dire anche da Ivan, è la verità di Ivan Zazzaroni, cioè lui dice la verità, cioè adesso non è un alibi, non deve esserlo assolutamente, però se tu mi chiedessi, se mi avessi chiesto a inizio stagione, dimmi 4 giocatori che in questa Juve non possono mai mancare per ruolo, per capacità e tutto, io forse sarei partito da Ronaldo, da Alexandro a sinistra, non perché sia il più bravo, ma perché non ha alternative all'altezza, da De Ligt, forse da Chiellini, avrei aggiunto Dybala, che per ora sta così e così, e questi non ci sono sostanzialmente. Però arriva la terza cosa, poi c'è la partita, e noi stiamo commentando quella, il periodo, e la partita ha dei segnali preoccupanti, c'è una squadra che ha dei buchi grandi, il Barcellona giochicchia nella nostra area a lungo, troppo a lungo, può fare molti più gol se non è un po' superficiale, sotto porta, e si specchia un po', e soprattutto scorri la formazione e ti chiedi da chi parte la riscossa ora, cioè chi è il leader che ora magari una giocata, e non è facilissimo, tutti buoni giocatori, tanti bravi, ma alcuni perché non stanno bene, alcuni perché sono molto giovani, altri perché, insomma, ognuno c'è un motivo, da una squadra che in difficoltà fatica a reagire, quindi i segnali preoccupanti ci sono senz'altro. Sì, è una Juve che non mette più soggezione, Pierluigi? Sì. È una Juve in difficoltà, una Juve in questo momento dal punto di vista strettamente tecnico, però ecco, quei 4 non sono un bersaglio, questo va detto, quei 4 lì non sono un bersaglio, sono un bel pezzo della, una bella fetta di torta, insomma. Cristiano Ronaldo, certo, lo diamo quasi per scontato certe volte, ma giocare con Cristiano o non giocare con Cristiano cambia, perché comunque Cristiano è in grado nei momenti magari anche di difficoltà di nascondere però dei problemi, e le sue giocate sono mancate ieri, sono mancate a Cotone, sono mancate col Verona, quindi veramente i problemi secondo me ci sono in questo momento, sono in maniera eccessiva, cioè, sì, Pirlo è il meno responsabile, nel senso che, o comunque è uno dei meno responsabili, nel senso che è arrivato da poco, sicuramente in alcune partite ha voluto un po' strafare, no? Nel senso che poteva essere un po' più schiscio, come diciamo noi a Roma Nord, ecco, poteva essere un po' più schiscio e poteva cercare di giocarsela un po' più col mestiere e con la conservazione dell'ordine costituito, ma la verità è che la squadra in questo momento senza quelli e con alcuni punti interrogativi, ad esempio ragazzi lo scambio piani Chartur, questo è un tema che va affrontato, nel senso che va bene il discorso di fare 2 plusvalenze, di mettere a posto i conti Pjanic dell'anno scorso, si mette a posto i conti e sguarnisci la mediana, però ma Arthur è un giocatore che la Juve voleva, che serve e piace a Pirlo, questa è una domanda secondo me importante da fare. Non lo so, un po' di punti interrogativi ci sono, ma ripeto, secondo me la parte tecnica, la parte legata a Pirlo in questo momento non voglio dire che sia la meno responsabile, perché non è un discorso di colpe, però è quasi una conseguenza di tutto il resto. Sei d'accordo, Massimo? Sì, sì, abbiamo detto, sono tanti fattori in questo momento. Poi ripeto, veramente, con magari metti Cristiano Ronaldo, vinci col Verona, vinci a Crotone, perdi magari col Barcellona e dici vabbè, può capitare. Però ripeto, se cominciamo con gli alibi in una rosa di 20 persone, questo no, giustamente no. la Juve non lo sta facendo. Nella nostra analisi secondo me ci sta, perché ripeto, non è che manchino giocatori importanti come, che so, Rabiot da una parte, Danilo che sta giocando molto bene, cioè mancano quelli che, scorrendo la formazione, esatto. E in più Pirlo, oltre a essere all'esordio nella sua vita come allenatore, quello è un piccolo rischio, un grande, non lo so, un rischio che ci siamo presi, consci di quello che ci siamo presi, non ha fatto praticamente precampionato come altri allenatori, però ripeto, se c'avevi già Conte, se c'avevi già Gattuso, se c'avevi già Pioli, parti un po' meglio. Ma gli rimproveresti qualcosa? Ma guarda, quello che gli rimprovero in questo momento, fatico a capire esattamente. Per esempio, l'ultima mezz'ora col Verona, ho capito, il Verona stanco, senza centravanti, quello che vuoi, ma a me come intensità anche è piaciuta molto, per esempio. Poi certo, pareggiare in casa col Verona e ci sta, dei lampi mi sono piaciuti. Ieri sinceramente quello che mi è dispiaciuto è non vedere mai un contropiano, cioè il Barcellona te la incarta praticamente per 60-70 minuti, a grande qualità, lo sappiamo benissimo e tutto, e però a un certo punto voglio vedere qualcos'altro. Tra i nomi fatti da Pierre mi prendo quello di Arthur e mi chiedo, lo conosco ancora poco da juventino, diciamo, Arthur, oltre a quello che ho visto a Barcellona, mi chiedo, ma è possibile che Arthur, che sa tenere molto bene il pallone, rallenta dai tempi e tutto, non trovi posto nelle partite principali per ora di questa squadra? Non lo so, magari sì, magari forse lo sopravvaluto io, però ecco, anche io ho qualche dubbio in questo senso. Da Pirlo mi sarei aspettato una mossa, un qualcosa al di là dei nomi che ci sono, che magari al momento non sono brillanti in panchina, una mossa per imbrigliare un po' il Barcellona, aggiunge un terzo centrocampista, esatto, fai qualcosa. Esatto. Ciao Massimo, grazie. Grazie, ciao, a voi, ciao, un abbraccio. Ciao. Allora, fermiamoci per la borsa, poi anche ascoltatori, 800 24 00 24, il numero verde. La Juve quando va in Europa, anche se cambia mille allenatori, gioca sempre da piccola squadra. Lorenzo. Tutti convocati, anche su WhatsApp. Tutti convocati, anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati. Tutti convocati. Io ad Andrea Pirlo gli voglio bene, è stato un grande giocatore, tutto, però sta scelta della Juventus non la capisco. Poi sta squadra qua proprio a livello fisico è proprio zero. Grande Andrea Pirlo, vecchio cuore rossonero, avanti così. Oh, buongiorno. Poco più di 24 ore fa parlavate della Juventus favorita, e l'avete goduta la lezione di tiki-taka oppure vi è andata di traverso? Io l'ho goduta. Io non ho goduto niente, ho visto la partita. Pierluigi parla da raccontata. poco da godere. Senti, non ti ho fatto fare radio Twitter all'inizio perché ho usato Ibrahimovic per fare radio Twitter. Pedri, che ieri mi ha veramente abbagliato. Ah, mio idolo. Sì, vabbè, la storia del taxi, poi l'avevo visto col Trekbar, l'avevo visto. Insomma, cerco di guardarle più o meno tutte, se non come partita, almeno come highlights su DAZN, c'è questa possibilità, però faccio anche l'aziendalista, dai. Uh-huh. Ma è vero, non è che riesco a vederle tutte, però gli highlights cerco di guardarle di tutte le partite. E si può. No, ieri ha fatto una partita, la cosa che mi ha veramente colpito è la continuità. Ieri veramente ha giocato una partita incredibile, ma incredibile non soltanto per i colpi, ripeto, ma perché per veramente 80-82 minuti è stato in campo ed è stato clamoroso. Sai che clamoroso. Parte il giochino, ti ricorda, chi ti ricorda? No, ma no, non mi ricorda niente. Mi ricorda uno bravo. Bravo, Pier. È carino perché è così un po'... piccoletto, no? Sì. Qualcuno dice Iniesta, ma calma, Boboni, giochino inevitabile. giochi in vita. No, però io sono, io faccio tifosissimo, tifosissimo di Pedri per, vabbè, per motivi che esonano dalla, che arrivano in, per motivi che arrivano in taxi e vanno via in carrozza, perché mi sembra, sembra anche a me un super giocatore. Mi è piaciuto proprio tanto come atteggiamento, e ti ripeto, come continuità, cioè non è, non è soltanto uno che ha dei colpi, i colpi non dico che ce l'hanno tutti, ma ce l'hanno pochi, però, però sono una cosa più facilmente, invece lui proprio è tutta sostanza, cioè veramente è stata una partita di sostanza, e sembrava un veterano, un ragazzo del 2002 che sembrava proprio così, affrontare la partita come se fosse uno del, del, del 90, sì. È pieno della sua vigoria e della sua maturità tecnico-tattica, direi, per cappella. Sì, tecnico-tattica. Alla, alla Kulusevski, per, come atteggiamento di Kulusevski poi ieri non, no, brillante. Secondo me no. Secondo me no, nel senso che Kulusevski invece è per me forte, anche tanto, però in questo momento è ancora un giocatore che vive di colpi, di strappi, cioè quello che mi ha colpito di Pedri ieri è proprio la, la maturità, sì, la, sì, sì, la, sì, la serenità con la quale ha affrontato la partita, ecco, questo mi ha, mi ha, mi ha sconvolto in positivo. Kulusevski in questo momento, scusami, Kulusevski in questo momento fa delle cose importanti, prova a farle, qualche volta gli riescono, qualche volta non gli riescono, è bravo, bravissimo, ma è un giocatore di colpi, è un giocatore di istinto, talentuoso. Pedri è un ragazzo che non ha ancora 18 anni, che ieri ha giocato la partita come se fosse un veterano del Barcellona. Capisco bene. Carlo da Torino, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Cosa l'ha colpita invece a lei? In negativo mi ha colpito tantissimo, a me sembra che questa Juve abbia gli stessi problemi della Juve di Sarri, cioè voglia fare un tipo di calcio aggressivo andando a recuperare palla alta, ma ci sono comunque dei giocatori che non hanno nelle corde questo tipo di calcio. Quindi una volta che salta il primo pressing, poi ci sono delle voragini, prende sempre in due centrali, e questa cosa qui si nota molto quando, perché i centrocampisti aggrediscono e i difensori iniziano a correre all'indietro. E così non hai mai la squadra corta. L'ultima squadra corta, l'ultima Juve corta era quella di Allegri, ma faceva quelle cose lì 20-30 metri più dietro. Sì. Non, cioè, mi sembra che continui ad esserci questo equivoco tattico. Non, non abbiamo nelle corde quel tipo di calcio, quel tipo di calcio aggressivo, di recupero palla aggressivo. Però possiamo notare, sì, al di là dell'avere nelle corde, insomma, sono giocatori che insomma, magari li metti dall'altra parte del Barcellona, giocano in un modo diverso. Si può notare che ci vuole gamba, come dice, come dicono gli allenatori, per fare quel gioco lì, e che ci vuole equilibrio. Mi sembra che la Juventus in questo momento non abbia né l'una né l'altra. Sì, ma infatti è comunque aver, sono molto indeciso, nel senso che comunque aver cercato questo pressing alto, aver cercato delle cose, delle cose alte, ecco, in tutti i sensi, no? Delle cose di un certo livello, da un lato può essere un inizio di un percorso, quindi potrebbe anche portare, io mi ricordo sempre che Guardiola cominciò male a Barcellona, ve lo ricordo, sì. Quello che mi fa un po' più preoccupazione, secondo me sono alcuni nodi risolti dal punto di vista tecnico, al di là del discorso Pirlo o non Pirlo, cioè il centrocampo di questa squadra è un centrocampo che secondo me non ha tanto in termini proprio di creatività. Poi quelle assenze lì pesano tanto, Cristiano risolve le partite da solo, Chiellini è un leader della difesa, De Ligt comunque un giocatore assolutamente non può lasciare centrocampo, anche per mancanza di alternative. Anche la leadership manca, cioè, sì, secondo me. Quindi in questo momento forse questa squadra è veramente ingiudicabile, però alcuni nodi secondo me sono irrisolti. Questa squadra comunque, se paragoniamo il centrocampo con quello del 2015, insomma. No, ma certo, a livello di personalità tecnica, ma anche di personalità emotiva, di leadership intendo. Gianfranco? Buongiorno, grazie per l'ospitalità. Senta, volevo dire, per quanto riguarda questa mattina ho letto su Google una notizia che mi ha sinceramente sconvolto, che vogliono dar via Dybala per prendere Milinkovic e Icardi. Ma dico, la Juve secondo me sta sbagliando tutto, perché la squadra va ricostruita su Dybala. Secondo me Dybala è il nuovo Messi, è un ragazzo incredibile. Ieri sera non è apparso perché praticamente è stato ignorato dalla squadra. A parte che non si può giudicare la Juve senza Ronaldo, Chiellini, De Ligt, che dire, che fine ha fatto, che dire, non se ne sa niente. Sì, però se ignori Messi ti viene a prendere. Il nuovo Messi mi sembra tanto. Non ce la posso fare. non ce la vuoi fare. Veramente non ce la posso. Ma no, detto questo, poi. No, ma io neanche con la notizia di mercato del signor Google, ma non ce la posso fare. No, mi sembra no, bizzarro. Quelle di 3 anni fa, cioè 3 anni fa c'è stato un momento che Dybala. E non solo quel famoso Juve Barcellona, ma anche l'inizio della stagione 2017-18, quando lui fece delle cose straordinarie. Però poi la continuità non è un dettaglio, è fondamentale. Questo giocatore che ultimamente si è perso, purtroppo. Poi che abbia dei colpi non c'è dubbio, ma il giocatore ha fatto 8 gol nel 2020, insomma. E allora sì, lì però, appunto per quello io tenderei a sospendere il giudizio su Dybala tra un mese, sì, appunto, perché però il nuovo Messi nuovo Messi è una sciocchezza, il nuovo Messi è una di quelle cose che porta una spiga mostruosa, sì, no, ma è chiaramente una sciocchezza, però così come Gasperini sta insistendo forse pure troppo su Ilicic, che deve ritrovare se stesso, anche a Dybala io insomma 4-5 partite gliele darei per vedere nella sua intermittenza dove sta. È ovvio che arriverà un giorno, magari anche tra qualche giorno, che ci abbaglierà col suo talento, perché i colpi ce li ha. Il problema di Dybala secondo me è sempre lo stesso, cioè la continuità. Certo. Quante certo. partite su 50 partite all'anno, in quante partite Dybala è decisivo? Se Dybala comincia a essere decisivo 30-35 partite all'anno, ne riparliamo. Cambia no. completamente la sua dimensione. Oggi è la dimensione di un giocatore talentuoso, ma intermittente, come una lampadina natalizia. Allora fermiamoci per il traffico, poi ci facciamo spiegare invece da Stefano Boldrini quale strada hanno fatto i Pirlo d'Inghilterra per diventare a questo punto allenatori che stanno andando forte, Solskjaer e Lampard. Per me l'errore più grande che ha fatto la Juve risale a tempo fa, quando mandò via Allegri. Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24. Tutti convocati. Tutti convocati. Con Pirlo, con il suo passato da giocatore, mi aspettavo che almeno la palla cominciasse a circolare veloce. Ieri si vedevano giocatori che dovevano andare incontro alla palla, perché la palla andava in due all'ora. Dove dobbiamo andare così? Stefano Boldrini, che normalmente leggete sulla Gazzetta dello Sport. Ciao Stefano. Buonasera a tutti. Ciao, parlavo dei Pirlo d'Inghilterra che sembrano aver trovato la loro strada. Solskjaer allo United, strada già abbastanza lunga e complicatissima, e Lampard al Chelsea sono i due Pirlo di queste squadre. Che strada che percorso hanno fatto, per dirla alla Conte? Beh, intanto io direi, prima di definire Solskjaer il Pirlo, Solskjaer viene da 12 anni di lavoro. Lui ha cominciato con le riserve dello United nel 2008, poi ha allenato in Norvegia il Molde, ha fatto una parentesi a Cardiff, è tornato in Norvegia e poi è approdato al Manchester United, quindi c'ha diciamo una storia più consistente, una storia più naturale. Lampard è più accostabile, anche se non ci dimentichiamo che prima di approdare al Chelsea nel 2019 ha fatto un anno di Championship con il Derby County. Forse quelli più accostabili sono in realtà Arteta, che a mio avviso è il più bravo di questi giovani allenatori, che ha fatto un lungo apprendistato con Guardiola, e non è male neanche Scott Parker, nonostante l'ultimo posto del Fulham, che è una squadra abbastanza modesta. E io credo che ad esempio Lampard ieri è uscito molto bene da questa trasferta di Champions, dove tra l'altro c'era Abramovic in tribuna per la prima volta dopo 15 mesi. Ah, però esatto, e diciamo che l'elemento di maggior riflessione è che il Chelsea, che era un po' una banda del buco, da 3 partite non prende gol, con Siviglia, Manchester United e con il Krasnodar ieri. Mendy, che oltre che bravo è pure fortunato, perché ieri Russia non ha fatto una traversa, ha un pochino aggiustato la difesa, quindi poi c'è Thiago Silva. Insomma, verrebbe voglia di dire che gli hanno fatto il mercato comunque. Direi proprio di sì, un mercato da quasi 250 milioni di lire. Io vi rovescio la questione. Ieri, anzi, alla vigilia Lampard ha detto: io vengo criticato perché sono inglese, nei confronti degli altri, cioè negli altri club, gli stranieri godono di maggior comprensione. Io invece rovescio la questione, conoscendo bene il mondo del Chelsea. Se Sarri avesse avuto un inizio come quello che ha avuto quest'anno Lampard, con tutto quel popò di campagna acquisti, Sarri sarebbe stato impallinato dopo due partite. Invece Lampard finora è stato abbastanza protetto, in nome anche del suo passato al Chelsea. Quindi poi ci sono delle situazioni un pochino diverse, ecco, da vedere un pochino in profondità. Sì, anche Solskjaer, che secondo me è questa cosa che dice Bold, è fondamentale. Perché certo. Perché non è che quando c'è stata, per esempio, benevolenza, o magari c'è ancora benevolenza e curiosità per Pirlo, al di là poi di qualcuno che magari è amico proprio, ma insomma, in generale, complessivamente, quando tu hai uno come Pirlo, con la sua intelligenza, con quello che ha dimostrato da calciatore, è chiaro che sei incuriosito, e quindi il discorso vale anche per Lampard, non è una cosa italiana. È certamente una suggestione, come è stata una suggestione Guardiola, che poi è stato bravissimo nel trasformarla in realtà. Quindi questo è assolutamente interessante, che Lampard abbia potuto godere, stia godendo di una benevolenza e di un aspetto ambientale. Beh, però anche Solskjaer, anche Solskjaer, che il suo cammino United in diversi momenti è stato tra il difficile e il disastroso, cioè robe che al di là del credito... Ragazzi, lo United... ancora in Premier League, una classifica assolutamente inadeguata. Poi è chiaro, ieri c'è stata una sua incredibile, che deve essere una base per ripartire, per andare fortissimo adesso. Sì, fammi chiedere una curiosità a Stefano Boldrini per chiudere. Il Liverpool ha perso un po' di colore, o è una mia impressione da qua? Ma diciamo che il Liverpool ha perso soprattutto difensori, nel senso che rotto Van Dijk, Matip è da tempo fuori per un infortunio, si è fatto male anche Fabinho. Però nonostante questo, va detto, questa è la tua riflessione giusta, insomma, che quando sono partiti e c'erano tutti, quindi Van Dijk, Matip e Fabinho, c'è stato il famoso 7-2 di Birmingham. Diciamo che la squadra è ripartita un po' con la pancia piena e anche con un filo di presunzione, e qui in Inghilterra nessuno ti fa regali. Io approfitterei, ecco, invece di segnalare un dato di ieri, visto che si parlava di Champions, un argomento che mi sta molto a cuore: i tre gol segnati da Marcus Rashford dal 74esimo al 92esimo, da un calciatore che ha messo all'angolo il premier britannico Boris Johnson per la questione dei buoni pasto gratuiti agli studenti. Marcus Rashford ha 22 anni. Ho visto l'intervista di ieri sera, un ragazzo davvero con la testa sulle spalle, che ieri è entrato in campo, è stato decisivo, che è riuscito in una settimana difficilissima, perché il suo nome sui giornali per questa vicenda è stato bombardato in tutti i modi, è diventato un'icona di una certa Inghilterra solidale. Ieri è entrato in campo, 3 gol. Voglio dire, c'è chi ha fatto durante delle cose pure quest'estate. Durante il Covid, no? È stato anche uno di quelli che ha raccolto. Io posso dire che c'è chi con il Covid fa queste cose, c'è invece chi con il Covid scrive che fare i test sia una e sapete che cosa. Quindi ripeto, mi fa piacere, appunto, attraverso la vostra trasmissione, divulgare ulteriormente il nome di Marcus Rashford, perché è un ragazzo straordinario che sta facendo una cosa davvero importante. E qualche volta il dio del calcio guarda per terra, 3 gol ieri, a sottolineare in rosso questo suo momento. Grazie Ste, a presto. Grazie Stefano Boldrini. Buon lavoro. Ciao, grazie anche per Luigi Parda, domani naturalmente, Pier, Claudia Schiattone in redazione, Gianmarco Fernati in regia. Ciao a tutti. Ragazzi, ce l'abbiamo fatta! Ci vediamo domani. Enjoy. Saluti.